L'Eucaristia, mistero di fede e d'amore. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Questo versetto di San Giovanni annunzia al lettore del suo Vangelo che qualcosa di grande avverrà in questo giorno. È un esordio teneramente affettuoso, parallelo a quello che San Luca riporta nel suo racconto. Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione. Cominciamo fin da ora a chiedere allo Spirito Santo di prepararci a comprendere ogni gesto e ogni parola di Gesù, perché vogliamo vivere di vita soprannaturale, perché il Signore ci ha manifestato la sua volontà di darsi a noi come alimento dell'anima e perché riconosciamo che Lui solo ha parole di vita eterna. La fede ci fa proclamare con Simon Pietro: noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Ed è proprio questa fede, unita alla nostra devozione, che in momenti così importanti ci spinge a imitare l'audacia di Giovanni, accostarci a Gesù e adagiare il capo sul petto del Maestro, di colui che amava ardentemente i suoi e, lo abbiamo appena udito, li avrebbe amati sino alla fine. Tutti i modi di dire si rivelano insufficienti per spiegare, sia pure lontanamente, il mistero del Giovedì Santo. Ma non è difficile immaginare, almeno in parte, i sentimenti del cuore di Gesù Cristo quella sera, l'ultima che trascorreva con i suoi, prima del sacrificio del Calvario. Pensate all'esperienza così umana del commiato di due persone che si vogliono bene. Vorrebbero stare sempre insieme, però il dovere, un qualunque dovere, li costringe a dividersi. Sognerebbero di restare uniti, ma non possono. E così l'amore umano, che per quanto grande è sempre limitato, ricorre a un simbolo. Le due persone, prima di lasciarsi, si scambiano un ricordo, forse una fotografia, con una dedica così accesa che quasi potrebbe bruciare la carta. Non possono fare di più, perché il potere delle creature non è all'altezza del loro volere. Ma ciò che noi non possiamo fare, lo può fare il Signore. Gesù Cristo, perfetto Dio e perfetto uomo, non ci lascia un simbolo, ma la realtà. Ci lascia se stesso. Ritornerà al Padre e allo stesso tempo rimarrà con gli uomini. Non ci lascerà solamente un regalo che ci richiami alla mente il ricordo di Lui, un'immagine destinata a svanire col tempo, come la fotografia che ben presto rimane sbiadita, ingiallita e priva di significato per coloro che non furono protagonisti di quel momento d'affetto. Sotto le specie del pane e del vino c'è Lui, realmente presente, con il suo corpo, il suo sangue, la sua anima e la sua divinità. La gioia del Giovedì Santo. Come si comprendono adesso gli inni incessanti che in tutti i tempi i cristiani hanno elevato davanti all'ostia santa? Celebra o lingua il mistero del corpo glorioso e del sangue prezioso che il Re delle genti, nato da un seno virginale, ha sparso per il riscatto del mondo. Bisogna adorare devotamente questo Dio nascosto. È lo stesso Gesù nato da Maria Vergine, lo stesso che realmente patì e fu immolato in croce per noi, lo stesso dal cui fianco trafitto uscirono sangue e acqua. Questo è il sacro convito in cui Cristo è nostro cibo. Si perpetua il memoriale della sua passione, l'anima è ricolma di grazia e a noi viene dato il pegno della gloria futura. La liturgia della Chiesa ha riassunto in queste brevi strofe i momenti culminanti della storia di ardente carità che il Signore ci dona. Il Dio della nostra fede non è un essere lontano che contempla impassibile la sorte degli uomini, le loro fatiche, le loro lotte, le loro angosce. È un padre che ama i suoi figli fino al punto di inviare il Verbo, seconda persona della Santissima Trinità, affinché si incarni, muoia per noi e ci redima. È lo stesso Padre affettuoso che adesso ci attrae dolcemente a sé con l'azione dello Spirito Santo che abita nei nostri cuori. La gioia del Giovedì Santo procede da questo, dal comprendere che il Creatore si è prodigato per amore delle sue creature. Nostro Signore Gesù Cristo, come se non bastassero tutte le altre prove della sua misericordia, istituisce l'Eucaristia perché possiamo averlo sempre vicino, dal momento che Egli, per quanto ci è dato di capire, pur non abbisognando di nulla, mosso dal suo amore, non vuole fare a meno di noi. La Trinità si è innamorata dell'uomo elevato all'ordine della grazia e fatto a sua immagine e somiglianza. Lo ha redento dal peccato di Adamo che ricadde su tutta la sua discendenza e dai peccati personali di ciascuno, e desidera ardentemente dimorare nella nostra anima. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. L'Eucaristia è il mistero della Trinità. Questo flusso trinitario di amore per gli uomini si perpetua in maniera sublime nell'Eucaristia. Noi tutti, anni fa, abbiamo imparato dal Catechismo che la Santa Eucaristia può essere considerata come sacrificio e come sacramento, e che il sacramento è per noi comunione e insieme tesoro sull'altare, nel tabernacolo. La Chiesa dedica un'altra festa al mistero eucaristico, al corpo del Signore, Corpus Domini, presente in tutti i tabernacoli del mondo. Oggi, Giovedì Santo, vogliamo contemplare la Santa Eucaristia, sacrificio e alimento, la Santa Messa e la Santa Comunione. Parlavo di flusso trinitario d'amore per gli uomini. E dove avvertirlo meglio che nella Messa? Tutta la Trinità agisce nel santo sacrificio dell'altare. Per questo mi piace tanto ripetere nelle orazioni della Messa quelle parole finali. Per nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, ci rivolgiamo al Padre, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Nella Messa la preghiera al Padre si fa costante. Il sacerdote è un rappresentante del sacerdote eterno, Gesù Cristo, che nello stesso tempo è la vittima. E l'azione dello Spirito Santo nella Messa è tanto ineffabile quanto vera. In virtù dello Spirito Santo, scrive San Giovanni Damasceno, si effettua la conversione del pane nel corpo di Cristo. Tale azione dello Spirito Santo si manifesta chiaramente quando il sacerdote invoca la benedizione divina sulle offerte. Vieni, o Santificatore, Dio onnipotente ed eterno, e benedici questo sacrificio preparato per la gloria del tuo santo nome. Sacrificio che darà al nome santissimo di Dio la gloria che gli è dovuta. La santificazione che invochiamo è attribuita al Paraclito, che il Padre e il Figlio ci mandano. Riconosciamo ancora questa presenza attiva dello Spirito Santo nel sacrificio, quando diciamo poco prima della comunione, Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio vivente, che secondo la volontà del Padre e in unione con lo Spirito Santo, con la tua morte hai dato la vita al mondo. Tutta la Trinità è presente nel sacrificio dell'altare. Per la volontà del Padre e con la cooperazione dello Spirito Santo, il Figlio si offre come vittima redentrice. Impariamo a rivolgerci alla Trinità Beatissima, Dio uno e trino, tre persone divine nell'unità della loro sostanza, del loro amore, della loro efficace azione santificatrice. Subito dopo il lavabo, il sacerdote pronuncia questa orazione. Accetta, o Trinità Santa, quest'offerta che ti presentiamo in memoria della passione, risurrezione ed ascensione di nostro Signore Gesù Cristo. E al termine della messa c'è un'altra orazione di fervente omaggio a Dio uno e trino. Placeat tibi, sancta Trinitas, obsequium servitutis mee. Ti sia gradito, Trinità Santa, l'ossequio del tuo servo. Possa questo sacrificio, che io benché indegno ho offerto alla tua maestà, esserti accetto, e per tua misericordia attirare il tuo favore su di me e su tutti coloro per i quali l'ho offerto. La messa, ripeto, è azione divina, trinitaria, non umana. Il sacerdote che celebra collabora al progetto del Signore, prestando il suo corpo e la sua voce, ma non agisce in nome proprio, bensì in persona et in nomine Christi, nella persona di Cristo e nel nome di Cristo. L'amore della Trinità per gli uomini fa sì che dalla presenza di Cristo nell'Eucaristia derivino tutte le grazie per la Chiesa e per l'umanità. Questo è il sacrificio predetto da Malachia. Dall'Oriente all'Occidente, grande è il mio nome fra le genti, e in ogni luogo è offerto incenso al mio nome e una oblazione pura. È il sacrificio di Cristo, offerto al Padre con la cooperazione dello Spirito Santo, oblazione di valore infinito, che rende eterna in noi la redenzione che i sacrifici dell'antica legge non hanno potuto realizzare. La Santa Messa nella vita del cristiano. La Santa Messa ci pone così di fronte ai misteri principali della fede, in quanto è il dono che la Trinità fa di se stessa alla Chiesa. Si comprende allora come la Messa sia il centro e la radice della vita spirituale del cristiano e come sia anche il fine di tutti i sacramenti. La vita della grazia, generata in noi dal battesimo, fortificata e accresciuta dalla confermazione, si avvia nella Messa verso la sua pienezza. Quando partecipiamo all'Eucaristia, scrive San Cirillo di Gerusalemme, sperimentiamo la spiritualizzazione deificante dello Spirito Santo, che non solo ci configura con Cristo, come avviene nel battesimo, ma ci cristifica per intero, associandoci alla pienezza di Cristo Gesù. L'effusione dello Spirito Santo, facendoci divenire simili a Cristo, ci porta a riconoscerci come figli di Dio. Il Paraclito, che è carità, ci insegna a impregnare di questa virtù tutta la nostra vita e, consummati in unum, fatti una cosa sola con Cristo, possiamo diventare tra gli uomini quel che Sant'Agostino afferma dell'Eucaristia, segno di unità, vincolo dell'amore. Non faccio davvero una scoperta se dico che alcuni cristiani hanno un'idea assai povera della Santa Messa e che altri la vedono solo come un rito esteriore, se non addirittura come una forma di convenzionalismo. È la meschinità del nostro cuore che ci fa cogliere come per abitudine il più grande dono che Dio potesse fare agli uomini. Nella Messa, in questa Messa che stiamo celebrando adesso, interviene in modo particolare, ripeto, la Santissima Trinità. Per corrispondere a tanto amore, ci si richiede una totale donazione del corpo e dell'anima. Noi infatti ascoltiamo Dio, gli parliamo, lo vediamo, lo gustiamo e quando le parole non ci sembrano sufficienti, cantiamo, incitando la nostra lingua, pange lingua, a proclamare davanti a tutta l'umanità le meraviglie del Signore. Vivere la Santa Messa significa rimanere in preghiera continua, con la convinzione che per ciascuno di noi si tratta di un incontro personale con Dio. Lo adoriamo, lo lodiamo, gli chiediamo tante cose, lo ringraziamo. Facciamo atti di riparazione per i nostri peccati, ci purifichiamo, ci sentiamo una cosa sola in Cristo con tutti i cristiani. Forse qualche volta ci siamo domandati come poter corrispondere a tanto amor di Dio e forse vorremmo vedere esposto chiaramente un programma di vita cristiana. La soluzione è facile ed è alla portata di tutti i fedeli. Partecipare con amore alla Santa Messa, imparare nella Messa a mettersi in rapporto con Dio, perché in questo sacrificio è contenuto tutto ciò che il Signore vuole da noi. Permettetemi di ricordarvi ciò che tante volte voi stessi avete osservato, lo svolgimento delle cerimonie liturgiche. Seguendole con attenzione, è molto probabile che il Signore faccia scoprire a ciascuno di noi dove dobbiamo migliorare, quali vizi sradicare, come impostare il nostro rapporto fraterno con tutti gli uomini. Il sacerdote si dirige verso l'altare di Dio, del Dio che allieta la nostra giovinezza. La Santa Messa inizia con un canto di gioia, perché Dio è lì. Questa gioia, fatta di gratitudine e di amore, si manifesta nel bacio dell'altare, simbolo di Cristo e ricordo dei santi, un piccolo spazio santificato, perché su quest'ara si realizza il sacramento dall'efficacia infinita. Il Confiteor ci mette di fronte alla nostra indegnità, non di fronte al ricordo astratto della colpa, ma di fronte alla presenza concreta dei nostri peccati e delle nostre mancanze. Perciò ripetiamo, Kyrie eleison, Christe eleison, Signore, abbi pietà di noi, Cristo, abbi pietà di noi. Se il perdono di cui abbiamo bisogno dipendesse dai nostri meriti, in questo momento nascerebbe nell'anima un'amara tristezza. E invece, per bontà divina, il perdono ci viene dalla misericordia di Dio, che abbiamo orora lodato con il Gloria. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Ascoltiamo adesso la parola della Scrittura, l'Epistola e il Vangelo, luci del Paraclito che parla con voci umane affinché la nostra intelligenza comprenda e contempli, affinché la volontà si irrobustisca e l'azione si compia. Infatti, siamo un solo popolo che confessa una sola fede, un unico credo, un popolo riunito nell'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Subito dopo, l'offerta, il pane e il vino degli uomini. Non è molto, ma l'accompagna l'orazione. In spirito di umiltà e contrizione di cuore, possiamo noi esserti accetti, Signore, e il nostro sacrificio si compia oggi alla Tua presenza, in modo tale che Ti sia gradito, Signore Iddio. Irrompe di nuovo il ricordo della nostra miseria e il desiderio che sia limpido e purificato tutto quanto è per il Signore. Mi lavo le mani. Amo la bellezza della Tua casa. Prima del lavabo abbiamo invocato lo Spirito Santo, chiedendogli di benedire il sacrificio offerto per la gloria del Suo Santo Nome. Terminata la purificazione, ci rivolgiamo alla Trinità, Suscipe Sancta Trinitas, perché accetti l'offerta che le presentiamo in memoria della Passione, della Risurrezione e dell'Ascensione di nostro Signore Gesù Cristo e in onore della Beata Sempre Vergine Maria e di tutti i Santi. Che l'offerta ridondi per la salvezza di tutti. Orate, fratres, prega il sacerdote, perché questo sacrificio è mio e anche vostro, di tutta la Chiesa Santa. Pregate, fratelli, anche se siete pochi, voi qui riuniti, anche se non fosse materialmente presente più di un cristiano, e anche se ci fosse solo il celebrante, perché ogni messa è l'olocausto universale, riscatto di tutte le tribù e lingue, popoli e nazioni. Tutti i cristiani, per mezzo della comunione dei santi, ricevono tutte le grazie che ogni singola messa diffonde, sia che si celebri dinanzi a migliaia di persone, sia che aiuti il sacerdote, unica persona presente, un bambino e per giunta distratto. In qualunque caso, la terra e il cielo si uniscono per intonare con gli angeli del Signore Sanctus, Sanctus, Sanctus. Io acclamo ed esulto con gli angeli, e non mi riesce difficile, perché so di essere circondato da loro quando celebro la Santa Messa. Essi adorano la Trinità e so anche che interviene in qualche modo la Vergine Santissima a motivo della sua intima unione con la Trinità Beatissima e perché è madre di Cristo, della sua carne e del suo sangue, madre di Gesù, perfetto Dio e perfetto uomo. Gesù infatti, concepito nel seno di Maria Santissima senza intervento di uomo, ma per sola virtù dello Spirito Santo, è del sangue di sua madre, lo stesso sangue che è offerto in sacrificio di redenzione sul Calvario e nella Santa Messa. Così si entra nel canone, nel quale con filiale fiducia chiamiamo Clementissimo nostro Padre Dio. Gli raccomandiamo la Chiesa e tutti coloro che sono nella Chiesa, il Papa, la nostra famiglia, i nostri amici e compagni. Poi il cattolico, con cuore universale, prega per tutto il mondo, perché nulla può restare escluso dal suo zelo generoso. E affinché la nostra richiesta sia accolta, facciamo presente la nostra familiarità e la nostra comunione con la gloriosa sempre Vergine Maria e con quel pugno di uomini che per primi seguirono Cristo e morirono per Lui. Quam oblationem, si avvicina il momento della consacrazione. Adesso, nella messa, Cristo agisce di nuovo attraverso il sacerdote. Questo è il mio corpo, questo è il calice del mio sangue. Gesù è con noi. Con la transustanziazione si rinnova l'infinita pazzia divina dettata dall'amore. Quando tra poco si ripeterà questo momento, parliamo con il Signore, ciascuno di noi, dicendogli senza parole che niente potrà separarci da Lui, che la sua disponibilità, inerme, a restare sotto le apparenze così fragili, del pane e del vino, ci ha convertiti a una schiavitù volontaria. Presta me menti de te vivere, et te illi semper dulce sapere. Fa che io sempre viva di te e sempre gusti la dolcezza del tuo amore. Ancora altre suppliche, perché noi uomini abbiamo un'inclinazione naturale a chiedere per i nostri fratelli defunti, per noi stessi, e gli portiamo tutte le nostre infedeltà, le nostre miserie. Il peso è grande, ma egli vuole portarlo per noi e con noi. Il canone termina con un'altra invocazione alla Trinità Santissima. Per ipsum et cum ipso et in ipso, per Cristo, con Cristo e in Cristo, nostro amore è a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Gesù è il cammino, il mediatore. In Lui tutto, senza di Lui nulla. In Cristo, istruiti da Lui, osiamo chiamare Padre nostro l'Onnipotente, colui che fece il cielo e la terra e questo Padre affettuoso in attesa che ritorniamo a Lui ogni volta, ciascuno come un altro figliuol prodigo. Ecce Agnus Dei, Domine non sum dignus. Stiamo per ricevere il Signore. Le accoglienze riservate a personaggi autorevoli della terra sono caratterizzate da un grande apparato di luci, musica e abiti eleganti. Per accogliere Cristo nella nostra anima, come dobbiamo prepararci? Abbiamo mai pensato come ci comporteremmo se si potesse ricevere la comunione una sola volta nella vita? Quando ero bambino, la pratica della comunione frequente non era ancora molto estesa. Ricordo come ci si preparava alla comunione. Con grande cura per disporsi bene nell'anima e nel corpo. Il miglior vestito, i capelli ben pettinati, il corpo anche materialmente pulito e magari con un po' di profumo. Erano delicatezze proprie di innamorati, di anime forti e delicate che sanno contraccambiare amore con amore. Con Cristo nell'anima termina la Santa Messa. La benedizione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo ci accompagna per tutta la giornata, mentre ci impegniamo con semplicità e naturalezza a santificare tutte le nobili attività umane. Assistendo alla Santa Messa, imparerete a trattare ciascuna delle tre persone divine: il Padre che genera il Figlio generato dal Padre, lo Spirito Santo che procede dal Padre e dal Figlio. Trattando una qualunque delle tre persone, trattiamo un unico Dio. E trattandole tutte e tre, la Trinità, trattiamo ugualmente un solo Dio unico e vero. Amate la messa, figli miei, amate la messa. Fate la comunione con fame, anche se siete freddi e pieni di aridità. Fate la comunione con fede, con speranza, con ardente carità. Intimità con Gesù Cristo. Non ama Cristo chi non ama la Santa Messa, chi non si sforza di viverla con calma e serenità, con devozione, con amore. L'amore affina gli innamorati, li rende più delicati, li porta a scoprire e curare tanti particolari, magari minimi, ma sempre significativi della vibrazione di un cuore appassionato. È in questo modo che dobbiamo assistere alla Santa Messa. L'amore per Cristo che si offre per noi ci fa trovare al termine della messa alcuni minuti per un ringraziamento personale, intimo, che prolunghi nel silenzio del cuore l'azione di grazie dell'Eucaristia. Come rivolgersi a Lui? Come parlargli? Come comportarsi? La vita cristiana non è fatta di rigide norme, perché lo Spirito Santo non guida le anime in massa, ma in ciascuna infonde quei propositi, quegli affetti e quelle ispirazioni che l'aiuteranno a comprendere e a compiere la volontà del Padre. Penso tuttavia che molte volte oggetto fondamentale del nostro dialogo con Cristo può essere la considerazione che il Signore è per noi re, medico, maestro, amico. È re e desidera regnare nei nostri cuori di figli di Dio. Ma mettiamo da parte l'immagine che abbiamo dei regni della terra. Cristo non domina né cerca di imporsi, perché non è venuto per essere servito, ma per servire. Suo regno è la pace, la gioia, la giustizia. Cristo, nostro Re, non vuole da noi ragionamenti inutili, ma fatti, perché non chiunque mi dice «Signore, Signore» entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. È medico, e cura il nostro egoismo, quando lasciamo che la sua grazia penetri fino in fondo alla nostra anima. Gesù ci ha avvertiti che la malattia peggiore è l'ipocrisia, l'orgoglio che porta a dissimulare i propri peccati. Con il medico è necessaria una sincerità assoluta. Bisogna spiegare interamente la verità e dire «Domine, si vis potes me mundare». «Signore, se vuoi, e tu vuoi sempre, puoi guarirmi». «Tu conosci la mia fragilità. Avverto questi sintomi, soffro queste debolezze. e gli mostriamo con semplicità le ferite e il pus, se c'è pus. Signore, tu che hai curato tante anime, fa che mentre ti porto nel mio cuore o ti contemplo nel tabernacolo, ti riconosca come medico divino. È maestro di una scienza che soltanto lui possiede, quella dell'amore illimitato per Dio e in Dio per tutti gli uomini. Alla scuola di Cristo si impara che la nostra esistenza non ci appartiene. Egli ha dato la sua vita per tutti gli uomini e noi che lo seguiamo dobbiamo comprendere che non possiamo appropriarci in modo egoistico della nostra, ignorando i dolori e le sofferenze degli altri. La nostra vita è di Dio e dobbiamo consumarla al suo servizio, preoccupandoci generosamente delle anime, dimostrando con la parola e l'esempio la profondità delle esigenze della vita cristiana. Gesù aspetta che noi gli manifestiamo il desiderio di acquisire questa scienza, per dirci: chi ha sete, venga a me e beva. Gli rispondiamo: insegnaci a dimenticarci di noi stessi, per pensare a te e a tutte le anime. Così il Signore ci porterà con la sua grazia sempre avanti, come quando facevamo i primi esercizi per imparare a scrivere. Ricordate le aste che tracciavamo nella nostra infanzia sotto la guida della mano del Maestro? E così assaporeremo la gioia di manifestare la nostra fede, altro dono di Dio, anche per mezzo di un'autentica vita cristiana, nella quale tutti possono riconoscere chiaramente le meraviglie divine. Egli è amico, è l'amico. Vos autem dixi amicos. Ci chiama amici ed è stato lui a fare il primo passo. Ci ha amati per primo. Non impone tuttavia il suo amore, ce lo offre, ce lo dimostra con il segno più evidente dell'amicizia. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Era amico di Lazzaro e pianse per lui quando lo vide morto e lo risuscitò. Se ci vede freddi, svogliati, forse con quella rigidità che è propria di una vita interiore che vien meno, il suo pianto sarà per noi vita. Io te lo comando, amico mio, alzati e cammina. Vieni fuori da questa vita angusta che non è vita. Termina la nostra meditazione del Giovedì Santo. Se il Signore ci aiuta, e Lui è sempre disposto, basta che gli apriamo il cuore, ci vedremo spinti a corrispondere a ciò che è più importante, amare. E sapremo diffondere questa carità fra gli uomini per mezzo di una vita di servizio. Vi ho dato infatti l'esempio, insiste Gesù, parlando con i discepoli dopo aver lavato loro i piedi la sera della cena. Rimuoviamo dal cuore l'orgoglio, l'ambizione, i desideri di dominio e regneranno in noi, ben fondate nel sacrificio personale, la pace e la gioia. Per finire, un pensiero di amore filiale per Maria, madre di Dio e madre nostra. Perdonatemi se racconto ancora un ricordo della mia infanzia. Si tratta di un'immagine che si diffuse molto nella mia terra, quando San Pio X dette un impulso notevole alla pratica della comunione frequente. Raffigurava Maria nell'atto di adorare l'ostia santa. Oggi, come allora e come sempre, la Madonna insegna a metterci in rapporto con Gesù, a cercarlo e a riconoscerlo nelle diverse circostanze della giornata, e in modo particolare in questo istante supremo in cui il tempo si unisce all'eternità del santo sacrificio della messa. Gesù, con gesto di sacerdote eterno, attrae a sé tutte le cose per porle, divino afflante spirito, con il soffio dello Spirito Santo alla presenza di Dio Padre.